e denari di Nicoletta Carbone e Deborah Rosciani. Ed eccoci ritrovate in diretta, eccoci ritrovate accoppiate, Nicoletta, perché ieri la mi hai lasciata coppia. La bella coppia in beata solitudine, ma naturalmente il duo si è ricomposto per questa che, lasciatemelo dire, è una puntata veramente speciale per Cuore Denari, alla quale teniamo moltissimo e soprattutto sarà molto speciale nella seconda parte. Adesso vi racconteremo per quale motivo. Per quello che riguarda invece le prime informazioni di servizio che subito dobbiamo darvi, intanto ovviamente la borsa, che abbiamo monitorato con un po' di ossessione in questi giorni per verificare ancora a due giorni dall'elezione del nuovo presidente americano l'effetto Trump, che c'è anche questa mattina soprattutto su alcune piazze. Parigi è leggermente negativa, ma cresce ancora Francoforte più 0,4, Londra è negativa per lo 0,6%, quadro misto stamattina in Asia, Milano spinge più 0,8% grazie ad alcune trimestrali che sono state particolarmente apprezzate, Unipol e UbiBanca. Tutto il racconto della borsa anche per consentirmi di ricordarvi ancora una volta che manca una settimana all'appuntamento che aspettiamo da molti mesi, Investire in formati live. Avete ancora la possibilità di iscrivervi, andate a cercare il nostro evento sul sito di Radio 24 per partecipare appunto a questa manifestazione, che sarà un po' la sintesi del percorso che abbiamo fatto nella scuola del risparmio, nella nostra scuola di risparmio, appunto ogni giovedì con Investire Informati. Ci saranno tutti gli interlocutori che si sono avvicendati nelle varie trasmissioni, per cui vi aspettiamo, ma dovete accreditarvi. Naturalmente la procedura è molto semplice, per cui questo era quanto ci tenevo a dirvi. Detto questo, poi alle 11 Nicoletta invece. Sì, un saluto a un grande uomo, un medico, uno scienziato, lo faremo grazie alle testimonianze di chi l'ha conosciuto. Parliamo del professor Umberto Veronesi, interverranno tante persone, ma vogliamo lasciare spazio a voi all'800240024 per questa occasione, per lasciare un messaggio, un ricordo, un'immagine per questo uomo che ha cambiato la vita di tanti di noi, non solo delle donne, perché accanto ad una donna c'è una famiglia, c'è un gruppo, un uomo coraggioso che oggi vogliamo ricordare come sarebbe piaciuto a lui, non piangendo ma ricordandolo. Era un uomo di grande spessore, ma anche un uomo molto simpatico, divertente, che aveva il gusto della battuta, che amava la vita, e lo ricorderemo così. Quante bombe sono esplose nei tuoi ricordi. La canzone di Cesare Cremonini ci introduce invece al primo approfondimento di Denari, un tema che è stato molto analizzato sulle pagine dei giornali in questi giorni, che ha suscitato subito grande curiosità da tutti i potenziali interessati. Allora, la nostra Costituzione, lo sapete, in questo periodo è al centro di dibattito in vista del referendum del 4 dicembre, ma lasciando da parte gli aspetti messi in discussione da questa riforma, sappiamo quante siano invece le qualità della legge fondamentale della nostra Repubblica, che è un po' la nostra carta d'identità, e tocca in tanti suoi passaggi non solo gli aspetti legati alla politica, al potere, al governo dello Stato, ma anche e soprattutto i diritti, i doveri e la vita di tutti i cittadini. Proprio tra i diritti, la Costituzione riconosce quello all'identità personale e quello di pari dignità dei genitori, ed è proprio in base a questi diritti costituzionali che la Consulta qualche giorno fa, lo saprete, lo avrete letto sui giornali, ha accolto una questione di legittimità costituzionale che era stata sollevata dalla Corte d'Appello di Genova sul tema dell'attribuzione del cognome ai figli. Cosa ha fatto la Consulta? Ha dichiarato l'illegittimità della norma che prevede l'automatica attribuzione del cognome paterno al figlio legittimo in presenza di una diversa volontà dei genitori. E allora, quali sono state le conseguenze di questa pronuncia? Molti l'hanno interpretata come una porta aperta a questo punto alla possibilità all'attribuzione del cognome di entrambi i genitori al figlio, come avviene in tanti paesi. Certo, per una procedura standardizzata e apposita ancora la strada sembra piuttosto lunga, ma noi cercheremo di capire in via concreta che tipo appunto di conseguenze ci saranno. Intanto con noi questa mattina ce lo spiegherà l'avvocato Francesca Tosiricci, che salutiamo. Buongiorno avvocato, benvenuta. Buongiorno a voi. E non è un caso che abbiamo questo avvocato da noi questa mattina, perché proprio lei stessa ha due cognomi e ha portato avanti la procedura attualmente possibile. Adesso ce lo spiegherà, ma naturalmente noi vorremmo anche sentire seguire gli ascoltatori all'800 24 00 24. Come la pensate? Sareste d'accordo a dare il doppio cognome a vostro figlio, o avete delle esperienze in merito da raccontarci? Avete già provato a dare anche il cognome appunto della mamma a vostro figlio? Allora, avvocato Francesca Tosirici, ci racconta cosa è successo a lei? Allora, buongiorno. Allora, è accaduto questo, che per una scelta dettata dal desiderio di non far estinguere il cognome materno, una decina di anni fa, unitamente ai miei fratelli, abbiamo deciso di avviare questa procedura che ancora oggi si può seguire, che è quella rifacendo un'istanza alla prefettura. La razza era quella di consentire evidentemente al fratello maschio poi di poter trasmettere il suo cognome, però per una scelta condivisa in famiglia abbiamo preferito farlo tutti i fratelli, in modo che anche le femmine non si trovassero poi con dei cognomi diversi rispetto appunto al fratello maschio. È stata una procedura che è durata molti anni, circa 4 anni, anche dall'esito incerto, nel senso che diciamo che è a discrezione del prefetto accogliere o meno l'istanza, e quindi valutare se le motivazioni che vengono addotte hanno un pregio e meritano di essere accolte. Voi a quale prefetto vi siete rivolti, avvocato, e vi ha contestato la richiesta oppure l'ha accolta facilmente? Noi ci siamo rivolti al prefetto di Piacenza, perché la nostra residenza era lì. La richiesta è stata accolta. La particolarità è che siccome bisogna affiggere all'albo pretorio per 30 giorni la richiesta, la legge prevede che chiunque, per qualunque ragione, potrebbe fare opposizione alla richiesta dell'aggiunta del cognome. Quindi nel nostro caso nulla è accaduto, però se qualcuno contesta, il prefetto è obbligato ad indagare le eventuali ragioni. Certo, un po' come la contestazione di un'eredità, no? Esatto, però insomma, per voi è andato tutto regolarmente, quindi, avvocato, quindi tutto... Può spuntare uno che dice non sono d'accordo. No, esatto, qualunque, deve essere un parente peraltro, avvocato, oppure anche... Chiunque ha un interesse può motivare questo suo diniego, e il prefetto comunque è tenuto ad indagarlo, poi può anche disattendere la... Certo, non le dico che faccia di disappunto qui in studio dei nostri ospiti, ce n'è una che poi presenteremo estremamente liberale in tutte le sue scelte, per cui sta ascoltando con grande interesse tutto questo. Avvocato, naturalmente lei rimane ancora con noi perché poi ci racconterà, a prescindere dalla sua esperienza personale, la procedura che si deve seguire per eventualmente attribuire il doppio cognome appunto ad una persona, se si vuole avere sia quello legittimo appunto, almeno fino a questo momento, del padre, ma anche quello della madre. Ma il tema è anche capire come siamo arrivati a questa pronuncia della Corte Costituzionale. Allora, abbiamo al telefono con noi anche l'avvocato Susanna Schivo, che è illegale della coppia italo-brasiliana residente a Genova, che aveva chiesto di poter registrare il proprio bambino con il doppio cognome, facendo appunto poi ricorso. Buongiorno avvocato, benvenuta. Buongiorno, un piacere. Allora, ho ascoltato molto volentieri l'esperienza della collega, e aggiungo la mia, oltre che poi parlarvi della coppia, nel senso che io stessa, in accordo con mio marito nel 2011 alla nascita, ed è il primo momento in cui mi sono interessata, diciamo, della questione, come naturale, no? Come madre, avevo fatto la richiesta di concorde, appunto, di aggiunta del cognome materno, che mi è stata rifiutata, quindi diciamo che me la sono legata al dito. Motivo? Motivazione? Ovviamente l'applicazione della legge era comprensibile, quindi non è che io mi aspettavo questa risposta. Peraltro, un po' provocatoriamente, ho voluto avere il provvedimento scritto in cui mi veniva rifiutata. Ho poi pensato approfonditamente se fare io stessa intraprendere questa azione legale, non ritenendo e non volendo essere sottoposta la mia scelta alla discrezionalità del prefetto. Ritenevo che questo fosse una cosa offensiva, diciamo, sotto un certo profilo, perché la mia intenzione come marito era quella di a prescindere dalla trasmissione del cognome, come per le esigenze che sono state dette dalla collega, ma proprio di dare un'impostazione a mio figlio paritaria all'interno della famiglia. Chiarissimo. E quindi questo aspetto, l'idea di andare a fare una richiesta del prefetto, mi c'era un ostacolo mentale. D'altra parte, siccome essere gli avvocati di se stessi non è mai un granché per quanto il mi riguarda. Il ciabattino va sempre in giro con le scarpe rotte, come lei sa. Ecco. ho atteso e ho trovato. Quindi l'incontro, la congruenza di queste due esigenze, di queste due madri, ha portato con la signora Magagnaes a quello che oggi è un grandissimo risultato. Allora aspetti lì, prima di raccontarcelo direi di toglierci subito di torno il traffico che ci impedisce adesso di approfondire la storia di questa coppia brasiliana, per non interromperla subito. Allora sentiamo subito il traffico, poi ritorniamo sia con l'avvocato Susanna Schivo che con l'avvocato Francesca Tosiricci. Tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta. Cuore e denari. Allora, qua non vi posso dire quanti messaggi stanno arrivando, c'è addirittura adesso chi ipotizza di togliere di mezzo qualche cognome scomodo, addirittura un ascoltatore ci scrive: è possibile per motivi gravi richiedere di togliere il cognome paterno? Adesso non esageriamo con le conseguenze e la portata di questa pronuncia della consulta. Avvocato Schivo, torniamo a lei, qual è stata la storia di questa coppia di Genova che lei ha seguito sulla scorta anche poi della sua esperienza personale e come sono arrivati appunto al risultato di questa sentenza, questa pronuncia della Corte? Allora, dunque, la signora Magagnaes è come me, persona che con il proprio lavoro cerca di incidere nella società. Aveva questa esigenza pratica che l'ha diciamo particolarmente stupita, nel senso che nel momento in cui in Brasile il bambino poteva essere identificato con due cognomi liberamente, è chiaro che questa nostra norma italiana ci creava comunque creava un problema oggettivo anche di identificazione nell'ordinamento. Per cui cosa ha fatto? Ha chiesto come poter in qualche modo intervenire e gli è stato da me spiegato come c'era questa possibilità di andare al procedimento prefettivo. Evidentemente però anche lei, insomma, voglio dire, la discrezionalità del prefetto non insomma, ci siamo guardate e abbiamo detto facciamo insieme questa battaglia. Proviamoci. I tempi erano maturi, io avevo studiato già, avevo un po' visto vado, e c'era una possibilità di ritornare alla consulta con non solo con il peso degli anni che passano e degli anni passati dalla precedente pronuncia senza una normativa, no? Quindi questo insomma un peso ce l'ha, ma anche qualche prospettiva in più dal punto di vista strettamente costituzionalistico. Siamo andate insieme a fare la dichiarazione di nascita al bambino al Comune di Genova, abbiamo battagliato per farci fare un provvedimento scritto anche in questa occasione, perché poi normalmente semplicemente veniva apposto il cognome paterno e basta, non è che non veniva sentito diciamo l'intenzione, no, del ecco, ci coppia. Può sintetizzare quindi qual è stato il percorso, perché poi vorrei andare avanti, avvocato? Sì. Quindi? E il percorso è stato l'impugnazione del provvedimento di rifiuto davanti al tribunale. Il tribunale ha rigettato la nostra richiesta. Abbiamo fatto reclamo alla Corte d'Appello, la Corte d'Appello ha accolto l'eccezione di incostituzionalità da noi proposta, rimettendo gli atti alla consulta. A questo punto la consulta ha deciso in questi termini. Noi abbiamo solo comunicato stampa, certo. Quindi insomma esatto. No, infatti adesso esatto, questo è il punto da chiarire anche ai nostri ascoltatori, perché adesso non è che si apre chissà quale scenario, perché già in molti chiedono: vabbè, ma cosa succederà allora fra 2-3 generazioni? Avremo 15 cognomi tutti quanti? No, allora tutto sta sempre alla libertà personale. Avvocato Tosiricci, non è che adesso in automatico ad ogni bimbo che nascerà verrà attribuito immediatamente il cognome paterno e materno? Anche lì, se poi quando ci sarà anche la norma che definirà la cornice legislativa di tutto questo, sarà il tutto naturalmente demandato anche alla libertà personale, no, avvocato? Ci spiega? Assolutamente sì. Allora, intanto faccio i complimenti all'avvocato Schivo, perché ha raggiunto un risultato importante, ha portato un pochino ad aggiornare la precedente sentenza del 2006 che era un po' si era inserita in questo filone. La proposta di legge che era stata fatta nel 2014, approvata alla Camera e poi purtroppo ferma da allora al Senato, interviene negli articoli relativi proprio all'attribuzione del cognome, lasciando una libertà molto forte ai genitori, tant'è che si vorrebbe aggiungere un articolo che è il 315 bis, bis, in cui si dà la possibilità quindi ai genitori di decidere se attribuire il cognome materno, paterno o entrambi, e addirittura prevede che in caso di disaccordo si segua l'ordine alfabetico, l'indicazione alfabetica dei due cognomi. Certo, perché c'è anche questo aspetto, qual è quello che ha la precedenza. Certo. Quindi diciamo che questa sentenza, che poi quindi rimette un pochino in gioco la discussione di questa legge, dovrebbe comunque lasciare molta libertà ai genitori di decidere come procedere. Starà poi un pochino al legislatore anche intervenire laddove ci potrebbero essere per esempio dei problemi, per cui se i genitori hanno già avuto un bambino e l'hanno ovviamente assunto il cognome paterno, se domani la legge entra in vigore e nasce un secondo bambino che invece prende due cognomi, bisognerà cercare un pochino di armonizzare anche questa questione all'interno della stessa famiglia. Quindi, mi permetto? Sì, certo. Sì, no, stavo solo ragionando del fatto che la sentenza, che la pronuncia appunto della Corte ha una portata estremamente rilevante. Detto questo, appunto, deve essere tutto disciplinato appunto con norma di legge, perché questa non basta, quindi dobbiamo ancora un po' aspettare. Ecco. Assolutamente, noi non sappiamo esattamente, se non rispetto a quella diciamo progetto approvato nel 2014, se poi effettivamente a Senato e in Commissione Giustizia verrà ridiscusso, modificato, approvato a seconda delle possiamo dire delle discussioni che ci saranno. Ricordo che stiamo sempre parlando di coppie sposate, questo forse è un punto che era giusto sottolineare, perché le coppie non sposate paradossalmente fino ad oggi hanno avuto un vantaggio rispetto a questo. Possono ottenere più facilmente paradossalmente l'attribuzione anche del cognome materno, no? Ci spiega perché, avvocato? Perché se il riconoscimento viene fatto prima dalla mamma da sola e successivamente dal papà, la norma, la legge prevede che il bambino mantiene i due cognomi, quindi diciamo che sino ad oggi le coppie non sposate avevano un'opportunità assolutamente diversa rispetto a quelle sposate. Anche qui bisognerà un pochino capire poi se il legislatore intenderà armonizzare anche questo, nel senso che bisognerà poi prevedere che anche per le coppie non sposate, quindi figli naturali, ci potrà essere la stessa opzione, perché sennò si ritroverebbero a questo punto loro ad avere doppia procedura rispetto ai figli legittimi, quindi c'è un pochino un problema secondo me da tenere conto, che è questo. Però intanto questa pentola è stata aperta, in qualche maniera dovrà essere appunto gestita la situazione che ne consegue. Rodolfo da Torino, sentiamo cosa vuole raccontarci, benvenuto. Rodolfo, l'ho detto con la O larga. Rodolfo, buongiorno. Buongiorno. Rudy, per gli amici. Esatto. No, speriamo di no, meglio Rodolfo. No, io ho fatto la stessa procedura, la mia compagna è rimasta incinta e la mia compagna è francese, io italiano, ci siamo documentati per avere l'attribuzione del doppio cognome e l'unica strada che ci hanno consigliato, che aveva una, come dire, una possibilità di successo, era il riconoscimento differito. L'ha riconosciuto subito la mia compagna, mio figlio. Noi appena uscita dall'ospedale siamo andati a fare il riconoscimento paterno. E a quel punto di default parte la procedura al Tribunale dei Minori, che a Torino in 6 mesi ha dato l'attribuzione del doppio cognome. Lei ha parlato di compagni, Rodolfo, quindi non è sposato. Non sono sposati. No. Sì, come aveva anticipato l'avvocato. Esatto, avvocato Francesca Tosirici, ha fatto la procedura inversa, Rodolfo. Sì, diciamo che è proprio per garantire il doppio cognome ha usufruito di questa apertura che hanno le coppie non sposate. Che lei, tra l'altro, avvocato molto documentata sulla questione, ha anche raccolto dei dati, delle statistiche sulle richieste che vengono fatte alle prefetture. Ce ne sono molte? Allora, sì, ho fatto una piccola ricerca e possiamo dire che diciamo che questa sentenza si inserisce anche in una esigenza di scelte di libertà molto forte che si sente sempre di più. Ad esempio nel 2009 mi risulta che le domande alle prefetture per l'aggiunta del cognome materno fossero 1130, ci tengo anche a precisare che in 152 casi sono state negate le richieste. L'anno successivo, nel 2010, erano aumentate già a 1645, l'anno scorso i dati di ultimi non sono ufficiali, ma sarebbero 6.000 le richieste. Benissimo. Che sono state inoltrate alle prefetture. Allora, io ringrazio l'avvocato Francesca Tosirici per essere stata con noi e l'avvocato Susanna Schifo. Vi anticipo già che sono arrivati tantissimi messaggi, ovviamente a prescindere poi dalle curiosità sui 2, 3, 4 cognomi che possono derivare appunto da situazioni di questo tipo. In realtà c'è chi ci chiede ulteriori approfondimenti sulle implicazioni implicazioni pratiche, per esempio Adriano scrive come funzionerebbe con il codice fiscale e quant'altro. Avremo modo di tornarci, soprattutto se la legge che dovrebbe derivare da tutto questo appunto vedrà la luce a presto. Intanto grazie, noi ci fermiamo. Nicoletta, c'è il giornale radio poi e poi torniamo insieme con il nostro, speriamo, straordinario. Ci abbiamo messo tutto l'impegno, ricordo di Umberto Veronesi. A tra poco. Sono Giorgia Telesforo e volevo ricordarvi l'appuntamento con la grande musica di Radio 24. Soundcheck, il suono della musica di Giorgia Telesforo. Il sabato e la domenica a partire dalle 19:15. Soundcheck, sempre soltanto su Radio 24. Il segnale orario vi è offerto da Unica, l'assicurazione con la Q di qualità. Pensa Unica. State ascoltando un programma offerto da Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Io sono stata operata almeno 13 anni fa e quindi proprio dal figlio mi hanno salvato la vita, ecco, per cui, e poi adesso faccio la volontaria lì a Lio. E quindi mi sembrava doveroso. Sono venuto per Veronese perché è una persona veramente che merita. Ho consultato per mia sorella, purtroppo non c'è stato niente da fare, però è stata una persona deliziosa nel modo di porsi e nell'aiutarmi. E ha curato un sacco di persone e quindi merita venirla a vedere. Sono stata operata non qua, però in una scuola sua, insomma a Siena. Ho avuto l'operazione tanti anni fa. Commozione, riconoscenza, affetto, lo abbiamo sentito e apriamo con la voce delle donne che ieri erano presenti alla Camera Ardente e era con loro Cristina Carpinelli che abbiamo invitato in studio per, ciao Cristina intanto, ciao. Per chiederle un po' di raccontarci, l'abbiamo sentito, arriva l'atmosfera che sta accompagnando il prof, il professor Umberto Veronesi, e volevamo proprio chiedere a te, che a queste donne ti sei avvicinata e hai raccolto proprio quello che arrivava dal loro cuore, perché aveva un po' questa capacità di unire le donne e di dare loro coraggio. Quando il professor Veronesi mi diceva sempre, le donne sono capaci di amore, ma le donne sono capaci di uno straordinario coraggio quando si devono trovare quando si trovano ad affrontare una grande sfida come il cancro. Cristina. Sì, in effetti intanto è stato un momento molto emozionante, non pensavo di essere, di finire dentro questa forte emozione che veniva proprio dal parlare, cioè le donne che erano lì non si conoscevano, erano in fila e parlavano tra loro, ognuna aveva una storia da raccontare, alcune erano semplici passanti, cittadine milanesi, ma molte erano ex pazienti e in questa condivisione proprio di coraggio, di lotta, di essere sopravvissute al cancro e di essere sopravvissute in maniera così determinata perché accompagnate dal professore anche nella lotta, in questo percorso arrivava l'emozione, per cui ogni tanto qualcuno mentre parlava avevamo sentito si commuoveva, quindi scattava l'abbraccio. Poi era bello anche il fatto, e questo mi ha molto commosso, che fosse rappresentata proprio l'Italia intera, nel senso che c'erano diverse estrazioni sociali, culturali, di provenienza e di età anche. Non so, all'inizio quando sono arrivata alle 10 c'era una signora molto anziana, bellissima tra l'altro, che mi ha spiegato, lei è stata in cura da Veronesi dal 76 e mi ha spiegato che era lì perché era sopravvissuta al carcinoma e indossava un cappotto nero in segno di lutto e poi indossava una sciarpa verde, un cappello verde e gli stivaletti verdi, una persona di 80 anni meravigliosa, e questo verde era in segno di speranza per la ricerca, per la prevenzione, quindi il segno era questo, quello che lui ha lasciato in queste donne. Non era, abbiamo sentito anche chi c'era fatta, poi si è messo a fare volontariato, quindi anche ad andare avanti, perché c'è un futuro che è sempre migliore del nostro presente. Salutiamo Giovanna Gatti che è qua in studio con noi, che ci accompagna. Giovanna Gatti ha passato più parte, no, Deborah, sì, lo dicevamo fuori onda. Ben 16 anni di sì, vicinanza fisica vera, convivenza, sì, scrivania accanto, scrivania, sì, appunto con il professor Umberto Veronesi. Sì, sì, ho passato più tempo con lui che con mio marito, la mia famiglia. È stato veramente bello. Sei della famiglia, sì, il professor Umberto Veronesi era la tua famiglia, sì, e continua a esserla, ah, per sì, la famiglia. Certo. Sì, sì, assolutamente. E allora, a proposito di famiglia, in questo momento, lo sapete, si sta svolgendo il funerale laico a Palazzo Marino. Questa puntata vuole essere anche un'occasione per stringerci accanto alla famiglia. Vogliamo anche sfruttare questa straordinaria opportunità che la radio permette, ci offre, sì, e cioè di avvicinare persone lontane. E quindi c'è la nostra pagina, c'è il nostro numero verde. Con Deborah vi invitiamo a mettervi in contatto con noi, a far parlare un pochino il vostro cuore e la vostra pancia. Come hanno fatto peraltro in questi giorni, perché molto spesso trasferire su carta, in questo caso direi su una pagina vuota di Word sul computer, le proprie emozioni, perché ha attraversato appunto questi frangenti molto delicati della propria vita, noi l'abbiamo permesso e devo dire che molti ascoltatori e molte ascoltatrici hanno raccolto subito questo invito di raccontarci quella che è stata la loro storia, la loro appunto storia anche con Umberto Veronesi, e quindi continuiamo insomma a raccogliere tutte queste testimonianze, perché sono veramente un'ondata di emozioni, come le definiva prima la nostra Cristina Carpinelli, che raccogliamo molto volentieri. 800 24 00 24 349 238 6666 per i vostri messaggi, per anche per i vostri WhatsApp. Noi ci stringiamo, è come una grande famiglia, accompagniamo la famiglia che è informata di questo nostro, sì, sì, Giovanna, accompagnamento, sì, sì, e Paolo, il figlio Paolo Veronesi, che è direttore della senologia chirurgica dell'OIEO. Ci ha voluto lasciare il ricordo del suo papà. I miei ricordi partono sicuramente da quando ero bambino, da quando eravamo bambini, perché eravamo tanti, eravamo 6 figli in casa con mio papà, tutti piccoli, e lo vedevamo poco, però quando arrivava a casa la domenica a pranzo con un grande vassoio di paste, era sempre per noi una grandissima festa, e io e i miei fratelli facevamo a gara chi mangiava più pasta, era una piccola gara tra di noi, e quindi dividevamo poco tempo che ci dedicava, perché tutti sappiamo quanto era preso tra di noi, e non sprecavamo neanche un minuto. Mi ha trasmesso una grande passione per le moto, lui era un fanatico di moto negli anni 70 e andavamo insieme sereno, proprio che non poteva succedere niente. E questa fiducia in mio padre l'ho mantenuta per tutti questi anni, fino adesso. Ho lavorato con lui dal 1986, ormai da 30 anni. Mi ricordo quando all'inizio degli anni 90 finivo lo studio con lui, prendevamo la macchina e mi accompagnava in fondo a via Ripamonti, dove c'era un grande prato, e diceva: ma cosa c'è qua? No, guarda, qua ci sarà un nuovo istituto di oncologia. E dicevo: ma papà, ma c'è già a Milano un istituto? E dice: vedrai. E infatti aveva ragione, perché poi oggi sappiamo l'Istituto Europeo di Oncologia è diventata, diciamo, un'eccellenza nel campo, ha aperto la strada a tutta una serie di istituti clinici privati convenzionati che hanno reso la nostra regione forse la prima, sicuramente la prima in Italia in campo sanitario. Lui non era solo un medico, ovviamente un grande medico, era una persona che aveva delle idee assolutamente anticonformiste e che ha continuato a perseguirle con grandissima coerenza fino alla fine. Mi manca di vederlo in sala operatoria, di vederlo tra i malati, quella forse è la cosa che mi manca di più. Penso che lui ci sarà sempre tra di noi, perché insomma, anche se le persone mancano, le idee, soprattutto le sue idee, io penso che resteranno. Lui credeva tantissimo nei giovani, la fondazione che ha creato ha sostenuto centinaia e centinaia di giovani ricercatori, e lui pensava che il futuro fosse legato a loro. E con impegno, coraggio e determinazione il professor Veronesi ha cambiato la vita di tante donne, di tante famiglie, perché ha creduto, proprio ha voluto cambiare il modo di affrontare il tumore, Giovanna, perché per tanto tempo l'organo malato veniva amputato, quindi la donna veniva mutilata, e quindi oltre al dolore per la malattia, alla paura del cancro, perché c'è anche la paura, doveva confrontarsi con la violazione del suo corpo e la perdita della sua femminilità, e risparmiare alle donne questa offesa, questa violenza, è stata un po' l'ossessione del professor Veronesi, ma è stata dura anche per lui, perché essere innovatore è al suo prezzo. Sentiamo. Per molti anni sono stato quasi un nemico della classe medica, non riuscivo a mettere piede in alcuni istituti americani, considerato così, non dico un ciarlatano, ma uno molto a rischio di avere delle idee sbagliate. E quindi questo non mi ha mai depresso, io sono ostinato e quindi sono riuscito ad andare avanti ugualmente. Allora, Giovanna, sono molto ostinato e sono andato avanti, perché adesso il nome di Veronesi, parleremo anche di Veronesi non solo come medico e come innovatore nel campo dell'oncologia, ma anche come uomo. Sì. E come le battaglie anche civili che ha affrontato, ma adesso il suo nome viene abbinato a quello del linfonodo sentinella, del rispetto. Ecco, e lui ci dice, beh, al momento, all'inizio non è stato facile, ha dovuto essere ostinato, ma queste due tecniche hanno cambiato il volto e l'approccio al tumore. Intanto lui ha inventato primo nel mondo la quadrantectomia, perché Fisher, l'americano, arrivò dopo, e questo va detto, lui avrebbe meritato il Nobel anche solo per questo. E poi la tecnica del linfonodo sentinella, la radioterapia intraoperatoria per il tumore al seno, sono tutte tecniche che mettono insieme la cura della persona e la qualità della vita. Secondo lui curare una persona non significava solo prendersi cura del corpo, significava assicurarsi che questa persona recuperasse la propria integrità. L'integrità è anche l'integrità psicologica, certo, del morale, della mente e della dimensione affettiva, delle relazioni con gli altri. Per lui la vita era questo. Mi è piaciuto molto ciò che ha detto Paolo. Con il professore sembrava che non dovesse mai succedere niente di male, e sarà sempre così. Una cosa che voglio dire, non c'entra con la vostra domanda, avreste dovuto vedere gli occhi del professore quando guardava i figli. È una cosa che ieri ho detto a Paolo, e Paolo mi ha detto non farmi piangere. In realtà di lui la dimensione personale intima è molto affascinante, anche se molto segreta. Oggi tanti dicono di averlo conosciuto, in realtà sono pochissimi quelli che l'hanno davvero visto. Io voglio ricordarlo con gli occhi che aveva quando guardava i figli. E voi come volete ricordarlo, se l'avete conosciuto direttamente o anche indirettamente? Anche se il tumore non ha colpito la vostra famiglia, arrivano tantissimi messaggi. Non ho conosciuto Veronesi, ci scrive un ascoltatore su WhatsApp, ma una persona che salva una vita va rispettato. Lui va ammirato, stimato e rimpianto. Ambrogino per il prof, chiude il suo. 800 24 00 24, Marisa, buongiorno da Savona, benvenuta. Buongiorno, grazie. Io sono un'anziana infermiera plurispecializzata e alla fine degli anni 50, nel corso di una specializzazione in chirurgia, assistei a primi interventi di amputazione della mammella, interventi devastanti dal punto di vista fisico e psicologico, che lasciavano la devastazione anche dentro di noi, soprattutto di noi donne che assistavamo. E quando il professor Veronesi introdusse la nuova tecnica della quadrantectomia, proprio con ansia noi assistemmo sperando che andasse bene. E io vorrei che le persone oggi, ciarlatani che oggi lottano contro queste cose, capissero che cosa significava. Ho conosciuto poi il professor Veronesi personalmente nel corso di convegni, di congressi, e l'ultima volta a Savona, nel corso di una conferenza sul testamento biologico, il fine vita, altro tema sul quale sono impegnata e per il quale il professor Veronesi si è impegnato anche per la sua vita stessa. Ecco, vorrei ricordare questo perché veramente è stato un grande. Ecco, l'amputazione di mammella, questo era il nome scientifico. Vorrei che avessero chiaro che cosa significava. Io ho avuto persone, amiche, affette, eccetera, che sono state salvate dal professor Veronesi, dalle nuove tecniche che hanno cambiato, certo, che ormai sono diventate patrimonio, sì, di tutti. 800 24 00 24 se volete stare con noi per dare il vostro contributo. Intanto noi continuiamo con il ricordo, le testimonianze di chi ha condiviso, anche come ha fatto Marisa, anche l'impegno, lo sforzo del professor Veronesi, di chi gli è stato accanto, e sentiamo il contributo del professor Alberto Luini, chirurgo senologo in IEO e più stretto collaboratore di Veronesi. Veronesi era una persona molto tollerante, e perdonava anche qualche deviazione, qualche errore, ma era abbastanza inflessibile quando vedeva che il paziente non era trattato in maniera adeguata o qualche volta in maniera più superficiale. Quindi lui ha dato questo grande insegnamento che credo che tutti noi che lo abbiamo conosciuto, lo abbiamo seguito, abbiamo proprio dentro. Lui ha sempre detto che era più facile togliere un tumore del seno con un intervento, ma era più difficile toglierlo poi dalla testa della paziente. E questa è una frase che io ho sempre in mente, ho sempre presente, perché richiede che ci sia un'attenzione da parte del medico nei confronti della paziente. Il medico frettoloso è sempre stato da lui molto criticato, quindi un insegnamento proprio quotidiano. Ma mi mancherà la sua risata, il suo ottimismo, il suo buon umore, il suo vedere sempre il lato positivo delle cose e lo spronare sempre a non abbandonare anche studi o ricerche su risultati magari inizialmente poco convincenti o non positivi, ma andare avanti. Credo che questo sia un aspetto che io ricorderò sempre di lui. Giovanna, un maestro. Sì, un maestro. Un maestro, perché l'abbiamo sentito da Alberto Luini. E non solo ha insegnato, inventato delle tecniche che hanno rappresentato una svolta, ma il maestro ti dà anche una direzione. E poi sì, un maestro che sorride, un maestro che ti invita a tenere duro, ad andare avanti, ad essere umile, ma anche un po' ostinato, cocciuto. Perché sì, lui era molto ostinato e le sue migliori relazioni, presuntuosamente mi includo, erano con le persone ostinate. Infatti spesso c'erano discussioni anche molto feroci. Lui non amava gli yes men. Mm. Chi gli diceva sempre sì, ma che bravo professore, lo annoiava. A lui piacevano le persone ostinate come lui e quindi anche le persone che potevano scambiare opinioni magari contrarie alle sue. Tu hai scritto libri con sì, Veronesi, e ti sei incontrata e scontrata anche riguardo alla religione, nel campo della religione, fede sì, o non fede. Lui era ateo. Sì, sì, sì, noi abbiamo una scommessa, ma sono religiosamente sicura che ho vinto laico, io. Sì, posso dire. Lui era laico e non amava molto la parola ateo, anche se poi l'ha sì, usata. Diceva che non poteva dimostrare scientificamente l'esistenza di Dio, ma insomma questo era un limite suo, glielo diceva, un problema suo, perché in realtà Dio esiste. E allora io credo nell'immortalità dell'anima, sono sicura che lui sia vivo, quindi io sto aspettando che mi dia segni, perché gli ho detto: non mi freghi per favore, quando si trova vivo dall'altra parte mandi, ammetta che aveva torto. 800 24 00 24. Ha aperto peraltro adesso una breccia, Giovanna, con questa considerazione sul fatto che sia ancora vivo, che ecco, è molto esatto, controverso. Possiamo aprire, no, posso intanto salutare sì, una grande amica che è in linea sì, con noi, allora, che così, la coinvolgiamo anche in questa considerazione. Monica Guerritore, Monica. Ciao a tutte. Ciao, un abbraccio. Ciao Monica. Ciao Nicoletta, ciao Deborah. Buongiorno. Grazie per essere con noi. Sì. Monica, volevamo farti allora un commento doveroso. Allora, sulla signora Brigliadori che dice che non ha visto il cadavere di Veronesi, il professore mi ha telefonato appena prima della trasmissione, si scusa perché non può intervenire in diretta perché è impegnato a Palazzo Marino, comunque saluta tutti. Beh, allora Monica, Noi siamo vogliamo ricordare il professor Veronesi, lo fa, secondo me, lo dovrebbe fare ciascuna donna, anche se non è stata colpita da un tumore, perché Veronesi ha avuto in tempi non sospetti l'intuizione, la passione, l'ossessione di mettere la donna al centro, di tutelarla, di fare in modo che il suo corpo non venisse violato, devastato, mutilato, che la sua salute fosse protetta, ma al tempo stesso era importante dare a questa donna una qualità di vita che passa attraverso anche la propria femminilità. Monica. Io naturalmente concordo con questo, nel senso che era un uomo che amava le donne. E il suo atteggiamento nei confronti del corpo femminile era praticamente una sorta di sacralità aveva, e questo dava la misura di quanto fosse attento. Quando Maria Giovanna diceva che era appunto non aveva avuto dimostrazione scientifica di Dio, mi viene in mente la frase di Einstein che dice: però, perché anche Einstein non credeva in Dio essendo uno scienziato come Veronesi, però diceva: ma ho passato la vita per cercare di sorprenderlo al lavoro. Quindi il momento in cui Veronesi ha intuito quale fosse in quel momento, tanti anni fa, l'attenzione più grande della diagnosi precoce, cioè il salvaguardare il corpo umano, oltre che quello femminile, nel momento stesso in cui qualcosa si sta trasformando e l'ha divulgato dal punto di vista scientifico, ha salvato tantissime donne, compresa me, perché lui stesso in prima persona mi diceva sempre: controllati, controllati, controllati. Questo mi ha salvato la vita. Ma non solo questo, il suo sorriso era un sorriso intelligente, cioè quando ti raccontava quello che potevi avere, quello che poteva essere, capivi che lì dentro brillava la scienza, che è luminosa, non è chiusa. Lui era questo, era proprio luminoso, quindi ti affidavi alla sua intelligenza. Questo è, io ricordo, per me più forte che ho di lui. Monica, voglio leggerti un messaggio e lo leggo anche alle amiche, agli amici che ci stanno seguendo. Non ho conosciuto il professore, l'ho visto solo in TV, pensa. Ma quando nella mia famiglia c'è stato un problema, allo IEO mia sorella è guarita. Giovanna, prima di andare ai mercati, la testimonianza di Monica ci ha toccato. Ma Monica è Monica. Riesce a tirare fuori, a sottolineare le parole che arrivano al cuore. Noi andiamo a sentire i mercati, perché anche Giovanna, lui non voleva lacrime, vero? Ma adesso mi passano, un attimo. Un attimo, mercati, Monica Guerritore rimane con noi, andiamo a dare una sbirciatina ai mercati e poi ritorniamo insieme con le vostre testimonianze, i vostri ricordi e tanti amici che hanno incontrato il professor Veronesi, una strada che ha avuto tante sfide, ha incontrato tante sfide, anche degli impegni per delle battaglie civili. A tra poco. Fineco, la banca numero uno in Europa nel trading, vi presenta i 100 secondi di Radio 24, il Sole 24 Ore. Le firme più autorevoli del Sole 24 Ore aprono le porte al mondo dell'attualità politica ed economica nel primo editoriale cross-mediale di informazione. Dal lunedì al venerdì alle 9 e alle 17 su Radio 24 e su RDS e in video su radio24.it e su rds.it. State ascoltando un programma offerto da... Scegli Anima, miglior gestore fondi italiani Big al premio alto rendimento 2015 del Sole 24 Ore. Cuore e denari. Riprendiamo questa puntata un po' speciale in ricordo del professor Umberto Veronesi. Stanno arrivando tanti messaggi, vi leggo un messaggio arrivato da un'ascoltatrice su WhatsApp. Di lui non dimenticherò mai il sorriso, le parole che elargiva a tutte le pazienti, una grande persona che rimarrà nel mio cuore. Spero tanto che in un futuro prossimo si possa sconfiggere il cancro come lui avrebbe voluto. Questo è un bellissimo augurio. Sì. Che assolutamente. Ci arriva da una nostra ascoltatrice. Sì, lui riteneva che la sua vita fosse un fallimento, l'ha detto pubblicamente, sì. L'ha detto anche in uno dei libri che abbiamo scritto insieme, perché avrebbe voluto sconfiggere il cancro e di fatto non è riuscito a farlo nel corso della sua vita, quindi me lo auguro, sì. Ecco, guardiamo al futuro e salutiamo con un abbraccio anche Monica Guerritore, che ha accettato il nostro invito di partecipare a Cuore Denari per ricordare il grande prof. Monica. Io direi che prima di salutarci vorrei prendere appunto da questa cosa di guardare al futuro come lui avrebbe voluto, che non era solamente la salvezza e la definitiva sconfitta del cancro, ma era anche la salvezza del nostro pianeta. E quindi nella notte in cui lui si è spento idealmente e si è acceso qualcuno che del pianeta fino ad oggi non ha pensato di occuparsene, come Trump. Io direi cominciamo a spostare la nostra attenzione invece su quello che Veronesi avrebbe voluto continuare a fare, e quindi idealmente creiamo un'idea, un pensiero che si contrapponga invece a questo pensiero opposto, che è la distruzione e non la salvaguardia della vita e della terra. Ecco, solo questo per lui. Grazie Monica, un abbraccio. Grazie, arrivederci. Grazie a voi. Ciao. Arrivederci. Ciao Maria Giovanna. Ciao. Intanto sentiamo Emiliano Mariotti. Emiliano? Sì. Eccoci. Stiamo seguendo l'ultimo saluto, il funerale laico del professor Veronesi. Tu sei lì? Sono qui in Piazza della Scala, dove è stato allestito il maxi schermo, perché i milanesi che sono venuti a dare il loro ultimo saluto a Veronesi erano veramente troppi per rimanere in la sala Alessi, la sala del comune dove era stata allestita ieri la Camera Ardente. Appena finito di parlare Emma Bonino, che ha ripercorso le tappe dell'impegno civile di Veronesi, tutte le battaglie che hanno condiviso i radicali con il professore, e prima di lei il ricordo commosso del figlio Paolo e anche il ricordo altrettanto commosso del sindaco Beppe Sala, che ha ricordato la figura di questo grande milanese che ha sempre agognato la milanesità, essendo nato e cresciuto alle porte di Milano, e che a Milano ha dato tanto. Tanta commozione anche nella piazza, stracolma di persone appunto che non riuscivano a rimanere nel palazzo del comune. Un vero milanese, vero protagonista della storia della città, lo ha definito il sindaco Sala, che non è riuscito a trattenere le lacrime termine del suo intervento. Grazie Emiliano Mariotti, e noi continuiamo. Giovanna, sì. Anzi Deborah, Giovanna ci ha portato. Sì, ci ha portato un po' di libri che lei in questi anni si è, immagino, anche divertita, sì, a molto. Scrivere con il professore. Perché lui era divertente. Esatto. Abbiamo anche un po' scherzato sulla ennesima provocazione, chiamiamola così, di Leonora Brigliadori, che è convinta del fatto che il prof non sia mancato in questi ultimi giorni. E così un po' a microfoni spenti abbiamo immaginato questa ipotetica situazione che può vivere in questo momento il professore con Elvis Presley, che pure si danno un morto, con John Lennon e Marilyn Monroe, tutti insieme anche Moana Pozzi, esatto. Non commento, ma insomma potrebbe essere, non vogliamo dissacrare niente naturalmente, no. Ma siamo convinte che il professor Veronesi, sentendoci, si fa una grassa risata anche lui adesso. A chi vogliamo donare questi libri che Giovanna ci ha portato? Perché vogliamo è uno scambio, perché è un regalo. Lui ci ha fatto tanti regali, perché si è impegnato per noi. E noi vorremmo così dare questa restituzione a voi che lo state ricordando, con a volte anche solo con un'immagine, farvi arrivare a casa un libro del professore, che è stato scritto a quattro mani con Giovanna, e racconta un po' questa figura di un uomo che noi tutti abbiniamo naturalmente al grande medico, al grande ricercatore, a quello che ha cambiato, lo sottolineiamo, la storia dell'oncologia, ma era un uomo eclettico. Ricordo ad esempio il titolo Siate liberi, in cui tu e Veronesi parlavate proprio di questo. Parliamo ai ragazzi, per coltivare questa libertà, e Paolo Veronesi l'ha ricordato nel suo intervento, credeva molto nei giovani. Sì, moltissimo. I giovani erano il suo amore vero. Allora, noi vogliamo, abbiamo Siate liberi, la dieta del digiuno, perché lui era un esatto. digiunatore. Lui sì, io no. Sì, era un digiunatore super vegetariano. In tempi non sospetti, sì. Però basta uno che digiuna. Cioè non Ma è che uno deve scrivere il libro e l'altro digiuna. Esatto, deve... e un po' di energia serve. Bravo. Poi abbiamo Il mio mondo è donna, I valori di una vita, e l'altro Oltre il dolore. Poi tra l'altro posso dire tutti i libri che hai presentato tu anche ampiamente sì, nelle tue sì, trasmissioni. Ovviamente. Nel cuore del professore. È vero. Sì, sì. Oltre il dolore, viaggio. Nel senso profondo dire. Della vita, lo so, la questo, e non era questo donnino e perché e non perché era una ragazza, no, posso no, dirlo. No, lui veramente la tua maturità. No, ti ringrazio perché Giovanna ha scritto un ricordo del professor Veronesi che abbiamo messo nella nostra pagina in cui mm-hmm. mi coinvolge e mi ha commosso. Ma no. Comunque, non fatemi finire la trasmissione allora, da sola, forse a furia 00 24 00 24. Il tempo e gli ultimi minuti, vogliamo sentire anche il contributo di Paola Concia, sì. perché è stato un uomo che ha lottato anche per delle battaglie civili, quindi i libri sono 5, non mi vengono nessuna, le prime 5 telefonate all'800 24 00 24 avremo la possibilità di farli ricevere a casa. Andiamo a sentire le informazioni sul traffico e poi subito dopo insieme di nuovo con alcune testimonianze di amici, persone che l'hanno conosciuto, hanno condiviso battaglie, sfide, successi e anche dei momenti di grande criticità, perché per andare avanti bisogna anche sopportare dei momenti di impasse, e soprattutto con le vostre testimonianze tra poco. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta Cuore e denari. Il mio pensiero, la mia ossessione era quella di riuscire a convincere i chirurghi a eliminare solamente una parte del seno, quella malata, salvando la parte sana. Ecco qua, questa ossessione del professor Veronesi. Allora, siamo a Cuore Denari e voglio leggerti, Giovanna, sì. un messaggio. Pensate alla povera gente che non ha potuto curarsi perché non ha i vostri soldi. Mm. Non ne esiste. In Italia non ne esiste, perché tutti i centri di eccellenza, compreso lo IEO, sono convenzionati col sistema sanitario, quindi non esiste nessuno, realisticamente, che non abbia potuto accedere alle stesse cure con la medesima qualità rispetto alle persone che hanno un'assicurazione, quindi sono solventi. Quindi non è una critica che accetto, perché in Italia non esiste. E andiamo a Liliana. Buongiorno da Roma. Buongiorno, salve. Sì, volevo semplicemente, rapidamente, dire l'esperienza di mia figlia che a 27 anni ha avuto un tumore al seno, anche piuttosto grave. Ci siamo recati allo IEO e abbiamo trovato un clima bellissimo, rasserenante. E la ragazza è stata operata, è stata lì 2 giorni, attualmente ha un bambino bellissimo che sta allattando. Allora siate liberi, è per questo bambino. Sì, per il bambino. Siate liberi, è per questo bambino. Liliana, grazie. Grazie, ma Deborah aveva già selezionato anche un altro ascoltatore sì. che ti aveva colpito ed è Riccardo. Esatto, che ci racconta di conoscere bene il figlio Paolo, ma a parte questo, il ricordo più forte che ho di Umberto, ci scrive, è lo sguardo di mia moglie, operata da Paolo, quando nel 2004 vide il grande capo passare in corsia, seguito da un codazzo di donne che aumentava e c'era anche Giovanna dietro. Sì. Mia moglie inclusa, man mano che procedeva per le visite, ebbene negli occhi di mia moglie ho visto una sintesi di amore, ammirazione, devozione così intensa che mai nella vita ho avuto più occasione di rivedere. Quindi Riccardo ci racconta con grande trasparenza questo e mi piace perché che ci non sono riguardava lui, tanti uomini che raccontano e sì. ricordano il professor Veronesi. Carlo ad esempio, uno scienziato con la, devo dirlo, S maiuscola, mannaggia Carlo, non solo calcoli e molecole, ma tanta umanità ed empatia, un intellettuale come pochi ne esistono al mondo. Abbiamo detto battaglie anche civili, sì, vogliamo sì. sentire il contributo di Paola Concia. Non parlerò io della grandezza di uno dei più grandi oncologi e ricercatori e studiosi e italiani che aveva una fama internazionale, ma parlerò del Veronesi, appunto scienziato ma grande sostenitore delle battaglie civili. Io con lui lo abbiamo, noi che facciamo battaglie da anni, lo abbiamo avuto da sempre e sempre al nostro fianco. Era un uomo generoso, un grandissimo scienziato ma anche un uomo che aveva a cuore davvero la laicità dello Stato e la libertà delle persone, e ha aiutato moltissimo con la sua autorevolezza le battaglie civili, quindi lascia un'Italia più consapevole sui diritti civili, sulle libertà e sulla laicità, è sicuramente un grande insegnamento da questo punto di vista. Giovanna. Sì, sì, lui aveva la laicità, ma soprattutto la libertà, perché poi il suo concetto di laicità era il concetto vero, poi viene spesso frainteso in realtà. Per lui la libertà era prioritaria, primaria, era un bisogno. Lui era un uomo libero in ogni manifestazione, a patto che si comprendesse che cosa sia la libertà. Quando abbiamo scritto Siate liberi, lui mi ha fatto capire quanto noi a volte ci illudiamo di essere liberi, ma in verità stiamo rispettando tutta una serie di regole, di vincoli imposti dall'esterno fin da quando siamo bambini. Quindi lui prima insegnava a liberarsi da questo e poi a vivere in modo consapevole. Comunque era una libertà pacifica, perché era un grandissimo pacifista, e quindi la mia libertà non deve mai limitare quella dell'altro. Intanto vi leggo un messaggio, continuo a leggere i messaggi che stanno arrivando su WhatsApp e come SMS. Faremo a raccoglierli tutti, non lo sappiamo. All'800 24 00 24, per Nicoletta e Deborah. Sì. In questi tempi difficili una cosa è sicura, ha fatto più miracoli Umberto Veronesi che tutti i santi del calendario. Questo, questo ci scrive Giacomo da Fano. Direi un po' tanto. Che noi avevamo nel nostro studio un'icona regalata da una paziente di Sant'Uberto. E quindi c'era questo regalo, ovviamente è un regalo diciamo anche un po' allusivo, no? E io gli dicevo sempre che avremmo dovuto stampare dei santini, delle immaginette con la sua effigie e distribuirli. Lui mi chiamava dissacrante, insomma mi prendeva in giro, però questa dimensione un po' tra virgolette di santità e si percepiva gli veniva attribuita. Intanto maniera. Abbiamo Nicoletta da Vicenza. Nico, buongiorno. Buongiorno. Voi. Eccoci. Bravissima, è come sempre. Grazie Nicoletta. Vi seguo da moltissimo quando posso. E adesso posso seguirvi un po' di più, visto che prima insegnavo, adesso ho terminato l'insegnamento e quindi riesco un pochino di più a centrare le vostre ore di trasmissione. E niente, io volevo semplicemente partecipare, come molte persone sono qui in questi momenti, alla figura che è stato Umberto Veronesi, perché effettivamente lui ha seminato e ha seminato dappertutto partorendo bene, ecco. Certo. E questo è successo anche a me 15 anni fa, per cui da un problema avuto la mia ginecologa mi ha indirizzato direttamente a Milano, pur venendo da una città che comunque dal punto di vista ospedaliero funziona molto bene, che è Vicenza, però lì la cosa poi è andata perfettamente a buon fine, quindi siamo qua. E Nicoletta sottolinea con la sua testimonianza un messaggio che condividiamo tutti: il professor Veronesi ha insegnato alle donne il valore della prevenzione, sì, perché si è battuto per questo, e anche ad avere fiducia nella ricerca. Sì. Parleremo poi dell'AIRC se abbiamo tempo, ma nella nostra pagina abbiamo la testimonianza della dottoressa Colnaghi, che ha lavorato insieme all'Istituto dei Tumori di Milano per oltre 30 anni insieme a Veronesi, sì, quando occuparsi di cancro sembrava inutile, tanto da non meritare un luogo adeguato di cura. Lavoravano in uno scantinato ed è proprio lì che sono nate le prime idee di oncologia in Italia, che poi le hanno portate a scoperte incredibili, divenute proprio patrimonio della comunità scientifica, e questo che noi oggi vogliamo sottolineare di Veronesi, un uomo che poi ha condiviso e ha cambiato la storia di molti. Sì, lui ha cambiato la storia e ha cambiato la filosofia soprattutto della medicina, perché ha reso le persone con tumore persone con la dignità di essere curate, salvate e preservate nella loro integrità. Quanto alla diagnosi precoce, Veronesi è l'artefice di ciò che oggi abbiamo nella diagnosi precoce e quindi nella riduzione della mortalità da tumore al seno. Questo va detto, non solo per le ricerche e per la comunicazione che faceva, ma per come sapeva accompagnare la speranza a ogni messaggio. Allora, arrivano delle cose, non so se a lui farebbe piacere diventare santo subito, ma è questo che ci manda un WhatsApp. Ci prenderemo un po' di tempo. Guarda, tu lo sai, Nicoletta, allora, abbiamo presentato una volta un libro, e siccome Veronesi era un grandissimo conoscitore della Bibbia, ma veramente uno studioso di religioni serio, sì, continuava a parlare di Bibbia. A un certo punto Nicoletta, bravissima, coordinava. A me è venuto dal cuore, gli ho detto: professore, se va avanti così diranno che lei prima di morire si è convertito. E a quel punto tutti hanno riso e lui ha detto: no, questo no. Allora lo salutiamo con un sorriso, certo. Perché quel sorriso a cui tutti i messaggi hanno fatto riferimento, con l'empatia, con la sua impegno per la ricerca, con questa sua salutare ossessione per tutte le donne, e accanto ad una donna c'è sempre un mondo. Professore, ci faccia sapere se le è piaciuta la trasmissione, da dove ha potuto ascoltarla. Trovate altri contributi sulla pagina di cuore che abbiamo realizzato per il professor Veronesi. Grazie a tutti. Grazie Giovanna. Grazie. A lunedì.